adesso un momento che pardeggio e poi con tanti gloria onor al reggimento. Ah, non è ambizione che seduce questo cor, e l'amore in guarnigione non si può mancare, amor. No, non si può mancare l'amor. Padre terra, Dio cane giuro, Dio ahimè, abbaradoro, e ben saranti, ma so pur che fuor di questa altra strada a me non resta per poter del cor da vita. Solo un giorno, solo un giorno trio, son vivace tra le file e le bandiere, a girar che amor si piace con le viste di bandiere, con le viste di bandiere. Chi un giorno tiene a dire, credi a me la vera gioia, credi a me la vera gioia, la compagnia di vita, credi a me la vera gioia, credi a me la vera gioia, chi un giorno, credi a me la vera gioia, tiene a dire, la vera gioia, la vita con la città, credi a me, la vita, la vita, la vita. Venti scudi su due piedi, e ben vada, li prepara, ma la carta che tu vedi, pria di tutto dei segnar, sai scrivere? No! Ebbene, tu ha una croce sul camara, ma a ricercar, vado sto a ricercar, a ricercar. Alla mano giovinotto dell'acquisto mi consolo, sarai presto caporale te. Prendi te, me prendi ad esemplarti, ho ingaggiato il mio rivale, anche questa è da contar, anche questa è da contar.